Anche i Bdud che non possiedono concretezza sono compresi nei Bdud del giudizio. I cinque veleni, le passioni, la paura degli spiriti invisibili, la speranza di divinità immateriali e così la paura e la speranza per gli oggetti mentali sorgendo dal giudizio sono i Bdud del giudizio. Anche la liberazione dall'aggressività, nella sua stessa condizione, nasce dall'eliminazione della radice del giudizio. Si è liberati dai Bdud degli inferni infiammati e si ottiene la saggezza simile a uno specchio. La liberazione dal desiderio, nella sua stessa condizione, nasce dall'eliminazione della radice del giudizio. Si è liberati dai Bdud, dei preta affamati e assetati, e si ottiene la saggezza discriminante. La liberazione dall'ignoranza, nella sua stessa condizione, nasce dall'eliminazione della radice del giudizio. Si è liberati dai Bdud degli animali in cattività, e si ottiene la saggezza del Dharma Dhatu, ossia l'autentica natura dei fenomeni. La liberazione dalla gelosia, nella sua stessa condizione, nasce dall'eliminazione della radice del giudizio. Si è liberati dai Bdud degli esseri umani dall'indole volubile e si ottiene la saggezza che realizza le azioni. La liberazione dall'egotismo, nella sua stessa condizione, nasce dall'eliminazione della radice del giudizio. Si è liberati dai Bdud che combattono e litigano e si ottiene la saggezza dell'equanimità. Se non si elimina il giudizio, si hanno i cinque veleni. Se invece essi vengono eliminati, si avrà la saggezza dell'autoliberazione. Quindi essi sono tutti inclusi nella categoria dei Bdud del giudizio. Come il leone sulle alte cime innevate non ha timore, se si è privi di giudizio e si nutre fiducia, non si fluttuerà tra le divinità e gli spiriti maligni dell'esistenza. Pur se essi si solleveranno in centinaia, gli insegnamenti faranno luce chiara. Se si sa che essi sono proiezioni di se stessi, si compirà con sicurezza la grande azione, eliminando il flusso dei pensieri. E non compiendo alcuna meditazione, è sufficiente avere la comprensione profonda che nasce spontanea. Allo stesso modo ci si libera dalle malattie epidemiche. Questa pratica del GCOD, che sorge dalla profonda comprensione che non vi è radice, è l'insegnamento supremo tra tutti.